L'anno 151, Demetrio, figlio di Seleuco, scappò da Roma, si imbarcò con pochi uomini verso una città costiera e incominciò a regnare. Quando Antioco raggiunse il palazzo reale dei suoi padri, le truppe catturarono lui e Lisia per condurglieli, ma egli, conosciuto il fatto, disse: «Non fatemi vedere la loro faccia». Le truppe perciò li uccisero, e così Demetrio si assise sul trono del suo regno. Allora vennero da lui tutti gli uomini iniqui ed empi di Israele, con a capo Alcimo, che voleva diventare sommo sacerdote, e cominciarono ad accusare il popolo presso il re, dicendo: «Giuda, con i suoi fratelli, ha fatto perire tutti i tuoi amici e ha cacciato noi dalla nostra terra. Ora manda un uomo fidato perché vada a vedere quanto danno egli ha fatto a noi e alla regione del re, e a punire quella gente con tutti quelli che li aiutano». Il re scelse Bacchide, uno degli amici del re, governatore della regione al di là del fiume, grande del regno e fedele al re. Lo inviò insieme all'empio Alcimo, a cui conferì il sommo sacerdozio, e gli comandò di far vendetta contro i figli di Israele. Costoro partirono con un grande esercito e vennero nella terra di Giuda. Inviarono messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli con false parole di pace. Ma questi non si fidarono dei loro discorsi. Vedevano, infatti, che erano venuti con un grosso esercito. Un gruppo di scribi, tuttavia, si radunò presso Alcimo e Bacchide per chiedere patti giusti. Gli Asidei furono i primi tra i figli di Israele a chiedere loro la pace. Dicevano, infatti: «È un sacerdote della stirpe di Aronne colui che è venuto con le truppe, egli non ci farà cose ingiuste». Egli fece con loro discorsi pacifici e giurò pure, dicendo: «Non cercheremo di farvi del male, né a voi né ai vostri amici». Gli credettero, ma egli fece arrestare tra loro 60 uomini e li uccise in un sol giorno, conformemente alla parola che è scritta: «Le carni dei tuoi santi e il loro sangue sparsero intorno a Gerusalemme, e non vi era chi li seppellisse». Allora il timore di loro e il terrore si impadronì di tutto il popolo. Si diceva: «Non vi è tra costoro né verità né giustizia, infatti hanno violato il patto e il giuramento prestato». Bacchide poi partì da Gerusalemme e venne ad accamparsi a Bet-Zait. Mandò ad arrestare molti degli uomini che erano passati dalla sua stessa parte, nonché alcuni del popolo, e li fece sparire in un grande pozzo. Affidò la regione ad Alcimo e lasciò con lui un esercito per sostenerlo. Quindi Bacchide se ne tornò dal re, mentre Alcimo rimase a lottare per il sommo sacerdozio. Tutti i perturbatori del loro popolo si unirono a lui, si impadronirono della terra di Giuda e produssero una grande calamità in Israele. Giuda vide tutto il male che faceva Alcimo con i suoi ai figli di Israele, superiore a quello dei gentili. Percorse tutto il territorio della Giudea per far vendetta sui disertori, impedendo loro di far scorrerie nella regione. Quando Alcimo vide che Giuda con i suoi aveva il sopravvento ed egli non poteva resistergli, tornò anch'egli dal re e li accusò di cose malvagie. Allora il re inviò Nicanore, uno dei suoi più illustri generali, che odiava e detestava Israele, ordinandogli di sterminare il popolo. Nicanore venne a Gerusalemme con un grosso esercito e mandò alcuni da Giuda e dai suoi fratelli con false parole di pace per fargli dire: «Non vi sia guerra tra me e voi, verrò con pochi uomini per vedere i vostri volti in modo pacifico». Venne, infatti, da Giuda e si salutarono scambievolmente in modo amichevole, mentre i nemici stavano preparati per rapire Giuda. Giuda però si accorse del fatto che quello era venuto da lui con inganno, ne rimase spaventato e non volle più vedere la sua faccia. Nicanore allora, come vide che il suo disegno era stato scoperto, uscì per combattere contro Giuda a Kafar Salama, dove dalla parte di Nicanore caddero 500 uomini e gli altri si rifugiarono nella città di Davide. Dopo questi fatti, Nicanore salì al monte Sion e alcuni sacerdoti e anziani del popolo uscirono dal santuario per salutarlo amichevolmente e per mostrargli il sacrificio che veniva offerto per il re. Ma egli li schernì ridendo di loro, oltraggiandoli e pronunziando parole insolenti. Adirato, fece pure questo giuramento: «Se Giuda non viene consegnato subito nelle mie mani insieme al suo esercito, quando ritornerò vittorioso, brucerò questo tempio». E se ne uscì con grande furore. I sacerdoti allora rientrarono e andarono a porsi davanti all'altare e al tempio, piangendo e dicendo: «Tu hai scelto questa casa perché sopra di essa fosse invocato il tuo nome, affinché fosse casa di preghiera e di implorazione per il tuo popolo. Fa dunque vendetta su quest'uomo e sul suo esercito e periscano di spada. Ricordati delle loro bestemmie e non concedere loro riposo». Nicanore uscì da Gerusalemme e andò ad accamparsi a Bet-Coron, dove gli andò incontro un esercito di Siria. Giuda si accampò ad Adasa con 3.000 uomini e pregò. «Quando i messi del re Assiro bestemmiarono, uscì il tuo angelo e ne abbatté 185.000. Allo stesso modo, abbatti questo esercito che ci sta davanti, affinché gli altri sappiano che egli ha parlato empiamente contro il tuo santuario, e giudicalo secondo la sua malvagità». Gli eserciti attaccarono battaglia il 13 del mese di Adar. L'esercito di Nicanore, però, fu sconfitto, ed egli stesso cadde per primo nel combattimento. Quando il suo esercito vide che Nicanore era caduto, gettarono le armi e fuggirono. I giudei da Adasa li inseguirono fino a Gezer, suonando dietro loro le trombe d'allarme. Uscirono allora uomini da tutti i villaggi che si trovavano all'intorno, li accerchiarono e li fecero rivoltare gli uni contro gli altri. Così caddero tutti a fil di spada e non ne rimase neppure uno. Presero le loro spoglie e il bottino, mozzarono la testa di Nicanore e la sua destra, che egli aveva stesa arrogantemente, e le portarono e sospesero presso Gerusalemme. Il popolo se ne rallegrò grandemente e fecero di quel giorno un grande giorno di allegrezza. Poi stabilirono di celebrare ogni anno quel giorno il 13 di Adar. Così la terra di Giuda, per un po' di tempo, rimase tranquilla.